Noi siamo contenti che venga tenuta sveglia l'attenzione sui prati, ma non comunque se ne parli, voglio dire, perché in due giorni sono comparsi due articoli, no? Si è messo l'attenzione principale sulla questione del degrado. Il degrado è una cosa, voglio dire, secondaria, e del resto se uno lascia un'area abbandonata per anni è evidente che ci sono fenomeni di degrado. In più ai prati, io sono solidale con chi non ha casa, figuriamoci, però ai prati vanno tantissimi stranieri a tirar su tende e ad abitarci, è inevitabile che ci sia qualche forma di degrado, se non altro legata per esempio allo smaltimento che non fanno del loro rusco. Questa premessa, bisogna stare attenti a quello che si dice, perché in alcuni articoli, oltre a questo discorso del degrado, sono venute fuori informazioni imprecise. In particolare ce n'è una: noi stiamo dietro a queste cose, come tu sai, da un sacco di tempo. Abbiamo vissuto la stagione della proposta di un progetto di ricerca sui prati per approfondirne una serie di caratteristiche, soprattutto dal punto di vista, diciamo, vegetazionale, e su questa cosa si era arrivati a firmare una convenzione tra Comune, CNR, e ci doveva essere anche lì. Allora, parlare di progetto del CNR è improprio, non c'è nessun progetto, c'è solo una convenzione che non è stata firmata fino in fondo, e su questa cosa tra l'altro c'erano anche qualche remora dentro il comune stesso, non da parte dell'assessore, Quindi sono informazioni che vanno non corrette, ma insomma date più attentamente. E invece per quanto riguarda l'ipotesi di costruire case per l'emergenza abitativa su uno dei due quadranti, intanto parlare della metà dei prati non è vero, perché i prati ovest, che sono l'oggetto del desire di Invimit, sono 14 ettari, il resto sono 27, si vede subito che c'è una bella disparità, insomma. Quindi se una parte si potesse definire salva e si fossero i 27, sarebbe già un'enorme conquista per la città. Per quanto riguarda l'abitazione, l'Invimit non è un ente caritativo, fa le case per fare soldi, quindi l'offerta di residenze che ci sarà da un eventuale intervento in questa zona sarà non certo per risolvere un fabbisogno primario, e neanche la cosiddetta edilizia sociale residenziale risolve poi tanti problemi, perché non va, ripeto, neanche lei da un certo punto di vista a risolvere il problema di fondo, che è quello delle case popolari. Quindi in realtà, quando si parla di risoluzione di fabbisogno, bisogna specificare ben di chi si va a risolvere questo fabbisogno. Sicuramente con l'edilizia libera, con i costi che c'è oggi, risolve il problema di chi non ha problemi, scusa il gioco di parole. E poi la quota di ERS è una cosa che va sempre chiesta, perché è una specie di standard negli interventi edilizi importanti, anche se Bologna, io adesso forse hanno cambiato le norme, fino a poco tempo fa tutti i mostri urbani, non so se ti ricordi la questione dei mostri urbani, questi torri di 12, erano tutti congegnati in modo tale da non superare i 7.000 metri cubi, perché quella era la soglia in cui dovevi dare dell'edilizia sociale residenziale. La posizione di Rigenerazione No Speculazione sui prati, e qual è? Quelli appunto di mantenere tutto a bosco urbano? Sì, guarda, io non avrei mai pensato di arrivare a questo, però la nostra posizione è quella che ha il comune per adesso, perché nel programma di mandato c'è scritto che i prati, soprattutto quelli est, devono diventare un bosco urbano a evoluzione naturale, figurati se non ci andava bene. Il problema dei prati ovest è un pochino più complesso, non perché non ci sia del verde straordinario e tra l'altro tutelato da una legge di tanti anni fa, quanto piuttosto che esistono ancora, a differenza dei prati est, 30.000 metri quadri di superficie coperta, quasi 150.000 metri cubi di edifici esistenti. È chiaro che non sono cose da mantenere, secondo me è una relazione un po' troppo spinta, però queste sono le soglie di qualunque tipo di intervento che si possa proporre di farli dentro. Cioè si lavora con le quantità esistenti, tenendo al primo posto come input progettuale il mantenimento del verde e il collegamento di questo verde col verde dei prati est.